Hasbunallah wa kafa sami'allahu liman da'a. La nostra sufficienza è Allah e Lui ci basta. Allah ascolta l'invocazione di colui che invoca. Laisa wara Allah il muntaha. Non c'è termine dietro Allah. Man i'tasama billahi naja. Colui che si tiene stretto ad Allah sarà salvo.